America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. A gunman opened fire at a congressional baseball practice outside Washington, D.C. Several people were hit, including House Majority Whip Steve Scalise of Louisiana. He is currently in stable condition. Beh, la cronaca l'avete sentita ieri. Ormai, devo dire, tutti sanno che il povero deputato Steve Scalise, italo-americano di New Orleans. New Orleans, tra l'altro, grande città del sud della Louisiana, dove ci fu la prima grande immigrazione degli italo-americani nell'Ottocento, perché tutti pensiamo che gli italoamericani sono arrivati a New York, e invece no, gli italoamericani sono sbarcati per la prima volta in Louisiana. Tra l'altro ci fu un massacro di italoamericani a New Orleans, e dunque c'è una storia radicata degli italoamericani in quella città, e la famiglia di Scalise è molto integrata appunto a New Orleans, nella Louisiana. Il padre era un dipendente pubblico e Scalise si è fatto strada fino a crescere nei ranghi del Partito Repubblicano e diventare il capo della maggioranza in Parlamento, della maggioranza repubblicana. Ebbene, avete sentito, un pazzo, un folle, James Hutchinson, gli ha sparato, 66 anni, tutti lo definivano così, un tipo tranquillo. E poi succede che questi tipi tranquilli improvvisamente imbracciano un fucile, una pistola e si mettono a sparare. La notizia rassicurante è che non si è trattato di un attentato di estremisti islamici, ma di nuovo del gesto di un folle, e il quale è arrivato su questo campo di baseball, perché ci sono le squadre di baseball in Parlamento. I parlamentari americani vanno a allenarsi ad Alexandria e ci sono le squadre dei repubblicani e le squadre dei democratici. Anche sul campo da baseball non si uniscono, non si mischiano. Ebbene, in questo campo ieri mattina c'era la partita dei repubblicani, l'allenamento dei repubblicani, e questo signor Hutchinson è arrivato e ha detto: ma voi siete repubblicani o democratici? E questi erano un po' perplessi e ha cominciato a sparare e ha colpito il povero Scalise sull'anca. Insomma, è stata una notizia che ha dominato, ha spaventato, come sempre succede quando capitano episodi di questo genere. La polizia, la forza di polizia che era lì presente, ha subito reagito, ha sparato e ha ucciso Hutchinson, il quale è un fedelissimo seguace di Bernie Sanders e dice che lui non ne poteva più di Donald Trump. Dunque non sappiamo se c'era una motivazione politica vera. No, in realtà non c'era, era semplicemente il gesto di un folle. Però il fatto che questo capiti sul campo di baseball dove i parlamentari vanno ad allenarsi, devo dire, è preoccupante. Questo inevitabilmente porterà le autorità a rafforzare misure di protezione per tutti i parlamentari americani. La storia, direi, è chiusa a questo punto, diventa una storia di cronaca, è la storia del povero Scalise, il quale diventerà improvvisamente un eroe popolare, nessuno davvero conosceva bene il suo nome, è stato ferito all'anca, prima sembrava che fosse molto più grave, in realtà le sue condizioni sono stabili e si riprenderà presto. Bene, passiamo invece alla notizia di ieri, notizia economica, perché la Federal Reserve ha deciso di alzare i tassi. Beh, non è una notizia, questo un pochino era scontato, ve l'abbiamo ripetuto nelle settimane passate addirittura, ma per la prima volta abbiamo superato il livello dell'1%. Il margine di fluttuazione dei tassi di interesse va dall'1 all'1,25% e prima era dallo 0,75% all'1%. Si tratta della quarta stretta da parte del Federal Open Market Committee della Federal Reserve e si tratta della terza stretta consecutiva e della seconda quest'anno. Allora ci si chiede: ci sarà un'altra stretta o no? Sentiamo intanto Janet Yellen. Overall, we continue to expect that the economy will expand at a moderate pace over the next few years. Ecco, avete sentito la Yellen che spiega le ragioni dell'aumento. Beh, le ragioni sono chiare, l'economia sta andando bene, dunque questo aumento è in fondo un segnale rassicurante, e proprio ieri la Federal Reserve ha rilasciato le nuove proiezioni di crescita per l'economia americana e c'è un leggerissimo aumento, ma leggerissimo aumento rispetto alle proiezioni di marzo, dal 2 si passa al 2,1% e invece resta invariato il tasso di fluttuazione al rialzo 2,2 sia per marzo che per adesso. Dunque l'economia nel 2017 americana dovrebbe crescere fra il 2,1 e il 2,2%, per il 2018 1,8-2,2, quindi una leggerissima diminuzione, di nuovo 1,8-2% per il 2019. Non sono dei tassi, diciamo, tipici, muscolari per l'economia americana, non sono certamente quei tassi di crescita che ci prometteva Donald Trump, soprattutto se guardiamo alle proiezioni per il 2019. Ma Donald Trump deve ancora mettere in cantiere o comunque sdoganare il suo progetto per le riduzioni fiscali e deve ancora annunciare nei dettagli il progetto per gli investimenti infrastrutturali. Queste sono due manovre di espansione fiscale che dovrebbero sostenere la crescita, ma di cui la Fed ovviamente per ora non tiene conto, perché sul piano politico sembra difficile che sia possibile in tempi brevi riuscire ad ottenere un accordo, visti i nuvoloni politici che si addensano su Washington con lo scandalo del Russia Gate. Ma la notizia più importante di ieri, direi, non riguarda i tassi di interesse o le proiezioni per l'economia. Scusate, vi aggiungo rapidamente anche le proiezioni sui tassi di inflazione, perché mentre la Fed a un certo punto puntava a un tasso di inflazione del 2%, adesso lo ha ridotto la soglia all'1.6-1.7% e dal punto di vista dell'occupazione, ritiene che l'occupazione sarà attorno al 4.2-4.3% per il 2017. Insomma, viaggiamo su tassi di disoccupazione veramente molto contenuti, quindi l'economia va bene. Ma vi dicevo, la notizia più importante è questa, sentiamo. Yellen is so confident she revealed a plan to get rid of the trillions of dollars in assets the central bank bought to prop up the economy during the financial crisis. Ecco, la notizia importante è che la Yellen ha annunciato il rientro per i 4.200 miliardi di debito di titoli del tesoro e di mortgage security, di titoli sui mutui che detiene in portafoglio. La Fed aveva acquistato una gran quantità di titoli proprio per sostenere l'economia, aveva fatto più programmi di quantitative easing. A questo punto però, visto che l'economia va bene, occorre rientrare. Qual è il programma? È un programma molto complicato, non so se valga la pena che ve lo dia, perché prevede che non ci saranno reinvestimenti fino a 6 miliardi di dollari al mese, per arrivare fino a 30 miliardi di dollari al mese su base annuale, e in questo modo gradualmente cominciare a ridurre magari per 300-400 miliardi di dollari all'anno questa esposizione. Il programma importante perché era atteso, perché dovrebbe rassicurare il mercato e perché dà la misura di come a questo punto l'economia americana sia in carreggiata e dunque la Fed potrà rientrare da questa straordinaria manovra espansiva che ha consentito all'economia americana di restare a galla molto più a lungo e molto meglio di quella europea, con un'unica riserva: se l'economia americana dovesse di nuovo mostrare segnali di indebolimento, la Fed bloccherà tutto. Del resto lo sappiamo, in America è molto più importante la crescita dell'austerità. Beati loro. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!